Mix 24 di Giovanni Minoli. Domenica 17 aprile gli italiani saranno chiamati ad esprimersi su di una norma del 2006 modificata dall'ultima legge di stabilità che regola la durata delle concessioni per l'estrazione di idrocarburi, gas e petrolio dal mare entro 12 miglia dalle coste. Il quesito non riguarda la possibilità di effettuare nuove trivellazioni, ma investe solo le concessioni già esistenti. Votando sì, quindi a favore della cancellazione della norma, verranno poste restrizioni allo sfruttamento illimitato delle concessioni. Viceversa, optando per il no, la norma resterà immutata. Il referendum sarà valido se andrà alle urne il 50% più uno degli aventi diritto. A richiederlo sono state 9 regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna e Veneto. Si voterà nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23. Ecco, abbiamo sentito nella scheda di Sky, questa domenica ci sarà il referendum sulle trivelle. Risentiamo due posizioni a confronto. Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, lei ha detto l'ordine del PD è quello dell'astensione, io sono costretto a violarlo. Perché? Ma innanzitutto perché se noi, parlo delle regioni, non avessimo fatto la richiesta di referendum per la prima volta nella storia d'Italia, il governo avrebbe tranquillamente autorizzato le trivellazioni nelle 12 miglia. Quindi dice almeno le 12 miglia le abbiamo ottenute. Insomma, abbiamo avuto questo risultato. Dopodiché il governo ha tentato di neutralizzare anche l'ultimo quesito esistente, ma ha commesso un errore perché praticamente li ha resi come Highlander, cioè senza una data finale, sì. E soprattutto ha eliminato tutti i controlli di chiusura dei pozzi. Ma lei dice noi andiamo a votare per restituire dignità al PD, ma perché il PD perde dignità con questa indicazione di astensione? Io penso che un partito di governo, che ha anche il Presidente del Consiglio, deve dire o sì o no su un referendum, ma non dovrebbe dare indicazioni di astensione. Il fatto che qualche altra volta i DS abbiano fatto un errore del genere non significa che lo dobbiamo fare anche noi, e quindi è un'argomentazione che non regge. Ma si è capito all'interno del PD da dove è nata l'indicazione di astensione? Nel PD nasce dal Presidente del Consiglio. Quindi dipende da lui? Assolutamente, non c'è nessun'altra fonte, diciamo, di indirizzo politico. Ma quando lei dice, Emiliano, noi dobbiamo svelare i rapporti tra il governo e i petrolieri, perché quali sono? È evidente che c'è una pressione da parte dei petrolieri che tutto sommato sono energeticamente abbastanza irrilevanti nel nostro paese, ma evidentemente prestanti, tenevano moltissimo ad avere delle facilitazioni nelle ricerche e nelle coltivazioni dei pozzi, eliminando tutta una serie di controlli in contraddittorio con le regioni che evidentemente li infastidivano. Quindi lei dice anche alle scadenze progressive, certo, dei permessi. Quindi lei dice se passa il sì succede alle imprese petrolifere, succede che non ci sono più controlli di sicurezza, questo in sostanza dice. Praticamente i rinnovi finali che vanno di 5 anni in 5 anni, che sono legati alla dimostrazione da parte del petroliere di avere rispettato tutte le norme, sarebbero impediti se, come io penso, molti dei pozzi italiani, escluso quelli dell'Eni che mi pare siano in sicurezza con certezza, gli altri rischiano di non essere molto regolari. E in questo modo vengono sanati, perché praticamente si va avanti e si rinvia la data di chiusura del pozzo quando lo deciderà il petroliere, sì, che ovviamente aumenta il rischio. Senta, ma c'è chi dice che un eventuale successo del referendum metterebbe però invece a rischio migliaia di posti di lavoro. Lei non si preoccupa di questo? Questa è una falsità completa. Perché? Che purtroppo viene ripetuta anche dal capo del governo e questo mi dà un grande dispiacere, perché con la precedente legge, la 9 del 91, che aveva appunto i rinnovi di 5 anni in 5 anni, i pozzi non venivano chiusi e nessuno ha perso un posto di lavoro. Quindi evidentemente si sta cercando di spaventare le persone sperando che non vadano a votare, perché c'è il timore che un eventuale successo del sì possa avere impatti sugli interessi dei petrolieri o per altre ragioni che non conosco, negativi. E non mi pare che questo sia il ruolo del Partito Democratico. Senta, il Partito Democratico non è il partito dei petrolieri. 800 24 00 24 al numero verde 349 238 6666 l'SMS per chi volesse partecipare alla discussione. Alberto Clò è un economista, ex consigliere dell'ENI. Ecco, insegna insieme ad altre 150 autorevoli personalità della scienza, della ricerca, delle imprese, ha aperto un blog per diffondere una lettera dal titolo Le ragioni di una scelta sul referendum idrocarburi. Ecco, al contrario del presidente Emiliano, voi sostenete che non ci sono rischi significativi. Su che basi lo affermate? L'Italia ha una storia, diciamo, una tradizione storica nell'estrazione di idrocarburi che è seconda al mondo. Dal 1861 ad oggi, ecco perché dico che è la storia, la nostra garanzia, noi abbiamo estratto 200 milioni di tonnellate, sì, e abbiamo estratto circa 800 miliardi di metri cubi. I rischi, sì, non si affrontano, diciamo, decidendo di non fare, sì, ma con la capacità di governare, con la tecnologia, l'intelligenza, la professionalità. L'Italia ha, e non c'entra, non è solo l'ENI o altre imprese petrolifere, ha un'industria tecnologicamente molto avanzata, fatta di decine di centinaia di imprese e decine di migliaia di occupati. L'Italia, a parte il mare del nord, è il paese in Europa che ha la maggiore riserva di petrolio e di gas, ma che non ci sa sfruttare. Per un'opposizione che, diciamo, uno degli altri argomenti falsi che si sostengono, che stare al petrolio è alternativo alle rinnovabili. Sì. Chi lo dice o è ignorante, e quindi sono in parte giustificabile, e non lo è, e allora, diciamo, si va in un'altra malafede. Definizione. Comunque, guardiamo i dati. L'Italia ha dimezzato i consumi di petrolio, ha ridotto a un terzo i consumi di benzina, ha aumentato di 3 volte le rinnovabili. Ma il punto non è questo, non è che un barile di petrolio non estratto è una unità di rinnovabile, un barile però estratto è un barile in meno importato. Senta, l'alternativa è tra produrre e importare. Allora, sì, dal punto di vista dei numeri, che quantità di petrolio potrebbe essere estratto in Italia? Cioè, di cosa parliamo? Allora, noi potremmo nel giro di pochi anni, sì, raddoppiare l'insieme di petrolio e gas. Quindi dal 5% al 10% del nostro fabbisogno? Sì, diciamo, no, ma di più, perché il gas è di più, diciamo da 10 milioni di TEP, 11-12 milioni di TEP. Sì, ma in percentuali rispetto ai nostri bisogni? Potremmo andare al 10-12%. 10-12%. Esattamente. Ecco Mario, tu ci vai a votare domenica? Sono indeciso, sì, sono indeciso tra non andare o andare e esprimere un voto, diciamo, contrario al referendum, perché secondo me il referendum... Non ti convince. Ma no, non mi convince perché c'è sotto innanzitutto la solita cultura anti-industriale, diciamo così, ma questo potrei anche dire, vabbè, sorvolo, ma in realtà il quesito non corrisponde, non corrisponde alla campagna, cioè non è vero appunto che tu fai il no-triv in questa cosa, non è così. Senti, tu Pietrangelo? Sì. Vai a votare? Sì, vado, perché le trivellazioni non portano soldi, altrimenti... Parlo da siciliano, dovremmo essere ricchissimi e invece siamo stati devastati. Poi non è vero che estraggono solo gas, estraggono anche petrolio. Non è vero che se vince il sì, poi restano comunque le piattaforme. Se vince il sì, quelle cose orrende sul mare devono essere smontellate. Comunque, il presidente della Consulta, Paolo Grossi. È stato chiarissimo sul punto dell'andare a votare. Sentiamolo. Si deve votare al referendum, certamente nel modo come il cittadino crede opportuno di votare, ma credo che si debba partecipare al voto. Ecco, perché partecipare al voto significa, come dire, essere pienamente cittadini. Una specie di carta d'identità del buon cittadino, naturalmente anch'io vado a votare, ma adesso cambiamo argomento, parliamo di aeroporti e più precisamente dell'aeroporto di Fiumicino e dei numerosissimi problemi che ruotano intorno al suo ampliamento e alla sua trasformazione. L'estensione del nuovo aeroporto sarà di 1300 ettari, esattamente il doppio dell'attuale sedime aeroportuale. Occuperà circa 140 ettari di territorio, soltanto l'aerostazione, alberghi, centri commerciali e tutto ciò che sono i servizi per l'aeroporto. È un raddoppio sicuramente del sedime aeroportuale. Luglio 2012, ADR, la società che gestisce gli aeroporti di Roma, controllata attraverso Atlantia SPA dalla famiglia Benetton, presenta un piano di sviluppo fino al 2044. termine della concessione. 12 miliardi di investimento, 2 miliardi e mezzo per l'attuale aeroporto di Roma Fiumicino, oltre 9 miliardi per il nuovo aeroporto. Ma il progetto non convince tutti. Sono molte le associazioni, i comitati cittadini che si oppongono proprio al raddoppio dell'aeroporto di Fiumicino. Giovanna Corsetti ha raccolto le posizioni di cittadini e concessionari. Cominciamo con Lorenzo Lopresti, l'allora amministratore delegato di Aeroporti di Roma. L'aeroporto di Fiumicino passerà dagli attuali 37 milioni di passeggeri di capacità a 100 milioni. Ci sarà una prima fase che si concluderà al 2021 che riguarda il potenziamento di Fiumicino Sud, che è l'attuale, diciamo, infrastruttura, e poi una seconda fase che riguarda Fiumicino Nord, la cui realizzazione inizierà, diciamo, a partire dal 2020 e si completerà nel 2044. Andrea Guizzi, Comitato Fuoripista. Dove si svilupperà il nuovo aeroporto di Fiumicino Nord? Il sistema aeroportuale ricadrà praticamente totalmente all'interno della riserva statale del litorale romano. Siamo in un territorio di bonifica, vincolata da una riserva. In una zona oggi dove non è possibile ovviamente costruire nulla, perché la riserva statale protegge sia la fauna e la flora, ma anche il paesaggio. Perché quello che troviamo qui sono soltanto i vecchi centri della Maccarese, che erano poi i centri della bonifica, quindi sono di per sé da tutelare, sono elementi storici del paesaggio. Questi elementi storici del paesaggio, con il nuovo sedime autoportuale, verranno cancellati, abbattuti, per far spazio alle nuove piste e al nuovo terminal. Vito Riggio, presidente ENAC, perché serve un nuovo aeroporto? Io credo una necessità, diciamo, strategica del paese, perché noi non abbiamo nessun grande aeroporto, c'è una crescita che ci porta a pensare che nel giro appunto di 20 anni noi dovremmo raddoppiare anche Fiumicino. Antonio Pellicanò, Comitato Fuoripista. Voi non siete d'accordo, ma il nuovo aeroporto servirebbe, il traffico sta crescendo. Le previsioni di traffico fatte da ADR sono secondo noi sovrastimate e abbiamo visto che l'andamento del traffico passeggeri nel 2012, nel 2013, nel 2014 è stato parecchio sotto le previsioni. Però nel 2015 un aumento c'è stato, siamo a 40 milioni di passeggeri. Ma questo solo per effetto dello spostamento massiccio delle traffico low cost su Fiumicino. E senza il traffico dei passeggeri low cost, dottor Mattiuzzo? 29-30 milioni di passeggeri annui. Ma perché è così importante il numero dei passeggeri al punto da mettere dentro anche i voli low cost? Per il semplice motivo che nel contratto di programma è previsto che nell'anno 2021, raggiunti 51 milioni di passeggeri, si procede al raddoppio dell'aeroporto. Il contratto di programma è il contratto che il gestore firma con lo Stato e il raddoppio dell'aeroporto di Fiumicino è stato approvato dal governo Monti, dottor Mattiuzzo. Il contratto di programma viene firmato e ratificato il 21 dicembre dell'anno 2012 dal governo Monti. Governo Monti che già l'8 dicembre aveva annunciato le proprie dimissioni. E praticamente tra l'8 dicembre e il 21 dicembre vi è una forte pressione di ADR, addirittura prendendo in affitto delle pagine intere di giornali nazionali. 8 dicembre 2012 Mario Monti annuncia le dimissioni da Premier. Il 13 dicembre Gianni Mion, come presidente di Sintonia Holding della famiglia Benetton, che controlla anche gli aeroporti di Roma, pubblica a pagamento sui maggiori quotidiani nazionali un sollecito alle istituzioni per l'approvazione in deroga del contratto di programma, perché, dice, è importante, un'importante opportunità per il Paese. Il 21 dicembre Mario Monti accoglie la richiesta della Holding Sintonia e firma il contratto di programma in deroga. Per la prima volta dalla privatizzazione degli aeroporti di Roma avvenuta nel 2000 vengono fissate le regole della concessione, come spiega il responsabile delle infrastrutture di ADR a Giovanna Corsetti. Nonostante la privatizzazione, il contratto di programma non veniva firmato, il sistema tariffario vigente, che era fermo ormai al 2000. Che poi ci date i soldi non possiamo andare avanti. Come precisato dal responsabile dell'infrastruttura per ADR, l'ingegner Gregori, per la prima volta dalla privatizzazione degli aeroporti di Roma avvenuta nel 2000, un contratto tra lo Stato e il gestore ADR fissa regole certe per la concessione, opere da realizzare e aumenti di tariffa, cioè le tasse aeroportuali pagate dai passeggeri, come spiega Marco Troncone, responsabile finanziario di ADR. L'argomento tariffario, diciamo, a seguito dell'applicazione del contratto di programma, in termini di euro per passeggero, è di circa 8 euro, da 17 a 25. Ma perché in deroga, ingegner Troncone, cosa vuol dire? I contratti di programma, chiamiamoli non in deroga, sono contratti di programma che durano 4 anni. 4 anni non è un tempo sufficiente per, diciamo, gestire lo sviluppo di un aeroporto di queste dimensioni. Non sarebbe neanche lontanamente, diciamo, compatibile con la realizzazione di un nuovo aeroporto, per l'aeroporto di Fiumicino Nord. Certo, però, da 4 a 32 anni serviva tutto questo tempo fino alla fine della concessione? Molti dei nostri investimenti sono investimenti pluriennali, quindi io come posso imbarcarmi, diciamo, in un investimento che magari mi impegna per i prossimi 5 anni, quando magari allo scadere del terzo c'è un burrone e io non so lo schema regolamentare che ci sarà dopo? Ed è totalmente incompatibile per il finanziamento delle opere. Sono 12 miliardi di investimenti. Quale, diciamo, banca fornirebbe dei soldi? Presidente Riggio, ma perché era così importante firmare di corsa entro il 31 dicembre 2012 con un premier dimissionario che avrebbe dovuto limitarsi ad atti di ordinaria amministrazione? È perché la legge prevedeva una scadenza. D'altra parte, se le leggi hanno una scadenza, un paese civile rispetta le scadenze. Sul sito di ADR si legge: l'approvazione entro il 31 dicembre 2012, termine fissato dal legislatore per i contratti di programma in deroga, è un requisito essenziale per il finanziamento dell'intero progetto. Il 31 dicembre 2012 era dunque l'ultima data per portare a casa un contratto di 32 anni, apprezzato da banche e investitori, e che ENAC aveva già firmato il 25 ottobre 2012. Altrimenti bisognava rifar tutto da capo. Presidente ENAC Vito Riggio. Se mi dicono che c'è una scadenza, la rispetto. A parte il fatto che poi, se il governo non fosse stato d'accordo, era un governo di altissima qualità tecnica, come tutti sappiamo, avrebbe potuto benissimo non approvarlo. Ma il governo dimissionario di Monti, lo stesso che aveva definitivamente bocciato il ponte sullo stretto, approva il contratto di programma in deroga. E il presidente della holding Sintonia, Gianni Mioni, in risposta al suo appello a mezzo stampa, ottiene, grazie alla legge sui contratti in deroga, 32 anni invece di 4 di contratto garantito, 12 miliardi di investimento, finanziati dalle tariffe aeroportuali aumentate di 8 euro a passeggero in partenza, il che vuol dire 150 milioni l'anno in più, cash subito dall'8 marzo del 2013. Poi, nell'ottobre del 2015, con una conferenza stampa, Aeroporti di Roma presenta un nuovo piano di sviluppo e una nuova strategia, quella di potenziare ulteriormente l'attuale aeroporto del Fiumicino e poi ancora un piano di sviluppo verso nord in base al quale dal 2017 partiranno gli espropri per la nuova pista. Nel 2019 invece si attueranno gli espropri per un nuovo terminal e infine nel 2035, in base all'incremento di traffico, verranno fissati altri espropri per ulteriore ampliamento di Fiumicino Nord. E sono proprio gli espropri uno dei nodi più discussi di tutto l'affare Fiumicino. Giovanna Corsetti e il comitato fuori pista, sentiamoli. Gli espropri dovevano iniziare nell'anno 2014, grazie alle nostre iniziative è slittato ulteriormente. Dovrebbero iniziare nell'anno 2017. E i terreni di chi sono? Dottor Mattiuzzo, comitato fuori pista. È da tenere presente che dei 1300 ettari interessati al raddoppio dell'aeroporto, circa 900 sono di proprietà della Maccarese SPA, il cui proprietario è la famiglia Benetton. Famiglia Benetton che controlla anche ADR. E nel contratto di programma è previsto che gli espropri li debba effettuare ADR. Nel 1998 Edizioni SPA, l'holding della famiglia Benetton, acquista da Iritecna, lo Stato, i titoli azionari della tenuta e azienda agricola di Maccarese. Oltre 3.000 ettari con castello e borgo annesso, 93 miliardi di lire il costo, circa 50 milioni di euro. Andrea Guizzi, comitato fuori pista. La Benetton che detiene l'area con la Maccarese SPA verrà espropriata dalla Benetton stesso sotto forma di ADR. Quindi gioca due parti nello stesso tipo di film, la parte di colui che espropria e la parte di colui che è espropriato, e la parte di colui che prende soldi pubblici per fare quest'opera tramite il meccanismo delle tariffe. Antonio Pellicanò, comitato fuori pista. Sono soggetti diversi dal punto di vista giuridico, perché uno è l'ADR e l'altro è la Maccarese SPA, però in realtà poi in cima a queste filiere poi ci sta la famiglia Benetton. Dottor Mattiuzzo, comitato fuori pista. Io ritengo che ci sia un conflitto di interessi, ma in Italia siamo talmente abituati ai conflitti di interessi che praticamente sembra una cosa innocua, ma ritengo che sia una violenza alla collettività. Ma quanto valgono i terreni, dottor Pelicanò? Sono dai 15 ai 20 euro al metro quadro, che comporterebbero per la Benetton un valore di esproprio stimabile in 150-180 milioni di euro. 50 milioni per l'acquisto di oltre 3.000 ettari, oggi meno di 1.000 ettari, più o meno 15 milioni di euro il loro costo nel 98, potrebbero essere espropriati a 150 milioni di euro, 10 volte di più. Ingegner Gregori, pensate di applicare anche in questo caso il premio del 50% per la non opposizione all'esproprio, come legge prevede? Non saprei che dirle, cioè francamente no. Vi crea imbarazzo che il maggiore espropriato sia la Maccarese S.p.A., cioè Benetton, cioè lo stesso che espropria? No. Il piano di sviluppo a lungo termine, che era stato fatto nel 1987, prevedeva l'espansione di Fiumicino a nord come step successivo per far fronte alla crescita. Perché dovrebbe creare imbarazzo? Cioè, nel senso, no, non mi crea nessun imbarazzo. Dunque, per alcuni cittadini un conflitto di interesse. Per il gestore ADR, l'attuazione di un piano già previsto quando a gestire l'aeroporto Leonardo da Vinci era lo Stato. Un piano di sviluppo dunque di cui si parla da 40 anni. Oggi come allora il progetto si basa su un'attesa crescita di traffico che però ancora tarda. Ma davvero l'attuale area dell'aeroporto di Fiumicino Sud non potrebbe accogliere altre strutture per far fronte a un eventuale aumento di passeggeri? Giovanna Corsetti ha fatto un'indagine su come funzionano alcuni aeroporti europei. È dimostrabile che l'attuale sedime aeroportuale, facendo efficienza con quello che è contenuto al suo interno e con un'oculata gestione da parte di Aeroporti di Roma, potrebbe contenere e trasportare 70 milioni e oltre passeggeri all'anno. È così, comandante Gagliotto? Con la metà della metà della metà delle risorse si può trasformare Fiumicino in un aeroporto di livello internazionale, perché Londra utilizza due piste, a Fiumicino ne abbiamo tre, e fa il doppio e più del traffico di Fiumicino. Quindi il problema non è il numero delle piste, il problema è la capacità che hanno le infrastrutture di terra e di controllo di gestire il traffico che arriva. Ingegner Gregori, perché l'aeroporto londinese di Heathrow, con lo stesso numero di piste, gestisce 70 milioni di passeggeri e noi invece dobbiamo raddoppiare l'aeroporto? Heathrow ha solo aerei grandi 24 ore al giorno e con un numero di persone che stanno all'interno di aeromobili altissimo. Da noi atterrano gli aerei che hanno come massima capacità 125-130 passeggeri. Però, ingegner Gregori, per questo non servono infrastrutture, ma diverse politiche di marketing. Invece di low cost, grandi aerei di grandi compagnie devono atterrare a Fiumicino. È esattamente quello che stiamo facendo. Con il marketing, invogliare vettori con aerei grandi a venire a Fiumicino e sempre con politiche di marketing prevediamo di arrivare a 50 milioni di passeggeri. Il traffico non cresce come previsto. Lo spazio, tutto sommato, ancora c'è. Nonostante l'approvazione del contratto di programma, il nuovo aeroporto di Fiumicino, se non serve, può anche non farsi. E questo è quello che ci aveva detto il presidente ENAC, Vito Riggio. Ma su questo, diciamo, noi l'abbiamo approvato con uno schema generale, però queste sono avventure. Lei sa, quando si fanno programmazioni a 20 anni e noi dobbiamo farla a 20 anni, è chiaro che non abbiamo la certezza. In 20 anni qualcosa può cambiare, addirittura saltare, ma anche su questo il contratto di programma ha una risposta. Come funziona, dottor Pelicanò? Ci sono nel contratto di programma degli indennizi a secondo, diciamo, sostanzialmente di tre casistiche: la possibilità che ci sia un'interruzione del contratto per interesse pubblico superiore. E poi su cos'altro sono previsti indennizi? Sostanzialmente il gestore, il concessionario non adempie agli obblighi contrattuali e anche in questo caso è previsto un indennizzo. E questa è la cosa un po' singolare. Non ho capito, anche se l'aeroporto non si fa per responsabilità del gestore, si parla... È previsto nel contratto che ci sia un indennizzo in caso anche di inadempienza contrattuale. Presidente Riggio, però questo contratto ci sembra un po' troppo dalla parte del concessionario. 32 anni garantiti e indennizzi su tutto. Prevede degli indennizzi per il valore dell'opera, che comunque rimane anche se non è stata completata. Quindi la quota che, diciamo, è stata comunque realizzata va remunerata. Va bene, ma perché prevedere indennizzi anche per manifeste incapacità del concessionario? L'articolo 20, per esempio, indennizza anche lì dove non vengano rispettate le norme della sicurezza aerea. Che senso ha? Su questo punto c'è stata una lunga discussione. Noi abbiamo chiesto un parere alla Presidenza del Consiglio, questo è il risultato della decisione dell'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi del governo italiano. Erano consapevoli di quello che leggevano fino in fondo? Assolutamente. Beh, allora, se non potessimo considerare come competenti gli organi supremi dello Stato, è meglio che chiudiamo bottega, insomma. No, magari è come dice lei, ma io non credo, insomma, non credo affatto. Dunque un contratto di 32 anni invece di 4. Espropri garantiti e al riparo da ogni sorpresa o querel giudiziaria grazie a un solo interlocutore. E poi indennizi per qualunque rischio o errore, cioè anche se l'opera non si fa o si fa tutto sommato non proprio a regola d'arte. Insomma, un buon contratto è un ottimo affare. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. State ascoltando un programma offerto da... Il colesterolo in eccesso può causare problemi al cuore. Danacol, grazie agli steroli vegetali, lo riduce fino al 10% in 3 settimane. Mix 24. Allora, Pietrangelo, che ci fai sentire oggi? Arriva. Doctor, my eyes have seen the years and the slow parade of fears without crying. Now I want to understand. I have done all that I could to see the evil and the good without hiding. You must help me if you can. My eyes, tell me what is wrong. Was I unwise to leave them open for so long? Allora, Pietrangelo, c'era un tipo oggi, uno che se ne stava in attesa, come ad aspettare di svegliarsi da un sogno. Aveva qualcosa di sbagliato negli occhi, era così. E lui lo credeva, lasciando poi correre tra i pendolari un lento corteo di enigmi, tutti misteriosissimi. Ha telefonato Dioniso, dall'occhio purissimo, e ha voluto dedicare questo brano ad Apollo, dall'occhio confuso, con un messaggio. Adesso basta treni, si va solo in maggiolone. Tell me what you see, I hear their cries, just say if it's too late. Allora Mario, andiamo con una bolla, bolla. No, sottolineo che ha messo di fantascienza. Che ha messo Jackson Brown. Beh, ma ormai l'ha detto, ha spiegato che si deve spostare continuamente per non farsi colpire. Trovare dove possiate credere che sia. Vabbè, ha messo Jackson Brown. Vabbè. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Vabbè, Guerrera ha colpito ancora, non dico altro. Oramai. No, vabbè, Lady Gaga e Beyoncé. Cioè, senti che roba. È un po' tamarra, eh. I re ci approvano. Vabbè, però ci può stare, perché c'è una cosa deliziosa stamattina che ho letto sul Financial Times, che giustamente si dedica con profondità a questo tema, cioè sul Brexit. A fare fantapolitica? Sì, no, è fantastico. Allora, cosa racconta? Gideon Ruckman ha fatto questo pezzo per dire, vabbè, che cosa succede il 24 giugno? Dopo il referendum che Cameron perde, e ha cominciato a immaginare Cameron, 24 giugno 2016, Cameron si sveglia a Downing Street da sconfitto, però dice che resterà primo ministro. I mercati europei crollano. Da Edimburgo la leader degli indipendentisti scozzesi dice: noi abbiamo votato per restare in Europa, ma a questo punto chiediamo un referendum per fare la secessione della Scozia dal Regno Unito. Francia e Germania fanno un comunicato congiunto congiunto per dire che ora serve un governo comune per l'Europa. Nei giorni seguenti però Cameron è costretto alle dimissioni. I Tories a questo punto cercano un nuovo leader. Si scontrano Boris Johnson e George Osborne. Vince al secondo turno il sindaco di Londra, che forma un governo nuovo. All'ingresso di Downing Street, il primo giorno da leader, spicca una frase in latino e fa per entrare nell'appartamento e inciampa sulla porta. Esilarante, tragico, secondo me più vero del vero. Ma questa sarà davvero una scommessa, una incredibile, quella pazzesca, del greco, quella dell'uscita dell'Inghilterra o no dall'Europa. Molto probabile, vediamo. Salamino! È proprio il caso di dire i londrini vanno matti per lei. Maria Eren Lamboschi è in viaggio a Londra e il Big Ben è in festa ed è tutta questione, non so se la pronuncia esatta, tutta questione di stability. Si dice così, Mario? Stability, sì. Perché lei è arrivata e ha detto stability. Un po' sardo, un po' siciliano, dipende da dove insomma, vieni. Da tu lo come lo pronunci, stability. Come dici tu lo faccio. Da Westminster ad Oxford, il ministro delle riforme del governo di Matthew Renzi ha spiegato i cambiamenti fatti dall'Italia. È stata accolta coi riguardi dovuti alla sua statura di statista della stability. L'Italia in 70 anni ha avuto 63 governi, ma la soave, l'incantevole, la tosta Boschi ha spiegato divertita come sia stato possibile trasformare in un colpo solo il sistema bicamerale e dare diverse mansioni al capo del governo e dunque il Big Ben è stato in festa. È andata a Piazza Affari, alla City, dove i pasticci finanziari paterni di Cameron hanno fatto dire alla soave, all'incantevole, alla tosta ministra, hanno fatto dire così, in forma di domanda. Ma non è suo papà? Sì. Burlava e correntisti. Vabbè, anche lui già il papà, il padre di Cameron. Infatti è lei che lo canta a lui. È il babbo di Cameron. Quindi può passare oggi? Così oggi passa. Perfetto. Tante sono state le domande dei londrini alla signora ministra. Qualcuno ha chiesto come sia possibile che un faccendiere tratti la propria compagna ministro come una sguatera del Guatemala. E la soave, l'incantevole, la tosta Boschi ha spiegato, teoria di Archimede Siracusano alla mano, che sulle intercettazioni ci vuole equilibrio. E certo che ci vuole equilibrio, perché se non il governo cade. Detto altrimenti, il Big Ben è in festa! La visita è stata lampo e densissima, ma la soave, l'incantevole e la tosta Boschi ha avuto il tempo di scrivere il proprio pittoresco diario. La vogliamo ascoltare? Sentiamo. Intorno a me esplode la primavera in tutta la sua lussureggiante bellezza. Il profumo della primavera già inonda la città. I sacchetti di rifiuti fermentano pigramente sotto il sole, spargendo forti aromi naturali. Vabbè. È il grande Enrico Montesano nell'interpretazione. Esatto. Quando faceva la romantica donna inglese. Però Renzi invece è stato molto bravo ieri nel suo discorso alla Camera. Secondo me l'ho trovato molto efficace. Scusate, però, poi posso dire copiava, adesso, però copiava, Non copiava da Maria Elena? No, copiava da lui. No, perché era simile e avrei potuto fare di quest'aula sorda e grigia. No, copiava. Non copiava, era ridicolo. Citava i padri. Lui. Citava. Ma quale padre? Solo un padre c'è. Uno solo. Posso fare una mozione? Siccome lui ce l'ha con Londra, io amo Londra. Allora bisogna Ce l'ha con Londra. Sì, anzi. Lui ce l'ha con Londra, non ti preoccupare. Vabbè, la perfida Albione. Io farò una mozione per chiudere un paio di giorni buttafuoco, dandogli da mangiare Bene, naturalmente, nella Torre di Londra per un po'. Bravo Mario. E io bravo, ti metto Mario. Lì dal torre, quello dal Conte Ugolino. Va benissimo. Ok, tutti e due, io che faccio? Non io so, ti propongo una bomba. Grazie. Un po' di rock, i Kiss, vai. Di dischi questi. I loro concerti erano sempre pieni di ragazze. E di ragazze? Molte ragazze, perché lui, il leader dei Kiss, è famoso per essere stato con un numero di donne infinito. Vabbè. Allora, Panama Papers, c'è una cosa altrettanto divertente. Stamattina ero in vena di trovare cose un po' curiose, sì, un po' diverse dalle altre, diciamo. Sì. E su Brookings c'è un famoso think tank americano, è uscito un'analisi molto interessante. E dice: vabbè, ci sono questi 11 milioni e mezzo di documenti dei Panama Papers. I giornalisti li stanno guardando, va bene, ma chi è John Doe? Cioè, chi è la fonte che ha inviato l'anno scorso alla Süddeutsche Zeitung, cioè un giornale tedesco, tutto questo materiale? Perché di John Doe non si sa assolutamente niente. Potrebbe essere un singolo, potrebbe essere un'organizzazione, e la cosa diventa molto interessante, anche perché anche noi qui a Mix 24 ci siamo chiesti: vabbè, ma non ci sono gli americani, per esempio, allora forse sono gli americani John Doe? E qualcuno invece ha detto no, ed ecco, no, potrebbe essere proprio lui, Vladimir. Allora, la cosa interessante, chi lo sostiene si chiama Clifford Geddy. E è una ricostruzione molto sottile dal punto di vista logico, ha il fascino della spy story, per questo te la sto segnalando. Insomma, la manina dei russi avrebbe lavorato così. E è un avvertimento del tipo: sappiamo tutto di te, abbiamo seguito la scia del tuo denaro, ma non pubblichiamo, non rendiamo noto il tuo nome. Per cui la notizia non sarebbe quelli che ci sono, ma quelli che non ci sono. Che sono i suoi boiardi. Che sono, insomma, un po' di gente in giro per il mondo. In giro per il mondo. Ora, io non so se c'è la manina americana, se c'è la manina Vabbè, questa è una russa, bella fiction. Però è una grande storia. Le puntate possono continuare all'infinito. Minoli ci farebbe molte puntate. Canzoniere! Così l'uom che afflitto giace, degli dèi cerchi la pace. 800 24 0024, numero verde 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Venite a casa mia, in 10 minuti vi faccio 2 spaghettini, Barilla naturalmente. Cosa facciamo? Tagliatelle all'uovo, bucatini, spaghettini? Sì, spaghettini al pomodoro. 7 minuti belli al dente. È pronta? Perfetta. Pasta Barilla non tradisce mai. Ecco, l'abbiamo ascoltata. Mina, uno spot della Barilla. È la fine degli anni 60 e da più di 10 anni Carosello porta la pubblicità nelle case degli italiani. Pietro Barilla intuisce subito la forza di quel nuovo messaggio e allora i meravigliosi calendari Liberty, i manifesti, i loghi fantasiosi lasciano il posto agli spot televisivi girati dai più grandi registi italiani e stranieri. Barilla, 4 generazioni di imprenditori lungimiranti che trasformano un piatto povero, la pasta, in un oggetto di culto e fondano un impero di marchi affermati in tutto il mondo. Pietro Barilla, la pubblicità dei buoni sentimenti, uno specchio dell'evoluzione del gusto, della cultura, del costume, un secolo di comunicazione, di crisi, di straordinari successi. Qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Pietrangelo, rileggi il canzoniere per favore, perché non abbiamo ancora vincitori. Così l'uomo che afflitto giace, degli dèi cerchi la pace. Dai anche un aiutino, dai. Insomma, un aiutino. Fate il liceo classico. Quello non è un aiutino. No. Sei elitario. Sei brutale. Non è che sono elitario. Questo fatto che c'è Renzi ormai nessuno va. Mamma mia, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Speriamo che qualcuno indovini. Adesso intanto col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Depression and Anxiety, gennaio 2016. Associazione tra l'uso dei social media e depressione tra i giovani statunitensi. I social media, i vari Facebook, WhatsApp, eccetera, sono ormai un pane quotidiano, soprattutto per le generazioni giovani. E allora i ricercatori statunitensi sono andati a vedere i 1787 giovani statunitensi tra i 19 e i 32 anni, attraverso un questionario con delle domande molto specifiche, sono andati a vedere se l'utilizzo dei social media si correla con la presenza di sintomi depressivi. Cioè, se chi usa social media in qualche modo è perché c'ha un tono dell'umore depresso o ha i social media deprimono il tono dell'umore. E cosa si è visto? Che questi 1787 giovani avevano un tempo medio di utilizzo di social media di un'ora al giorno, mi sembra una cifra ragguardevole, e di questi quasi 2000 solo il 3% non faceva utilizzo dei social media e il 26% riportava sintomi depressivi. E questo è un dato più alto di quello della popolazione normale, quindi c'è una correlazione tra utilizzo dei social media e sintomi depressivi, quindi fate attenzione, e più alto il rischio se femmina con bassa scolarità e un'età più adulta. La conclusione è che questi social media forse aumenteranno la possibilità di rapporti, però anche, è come al solito, bisogna forse far chiarezza dentro se stessi, perché non è il social media di per sé che ti fa felice, anzi, forse ti fa triste. E per chiudere, Gloria Guerrera, oggi cosa ha scelto? Oggi una canzone per chi odia la costanza, elegge gli estremi e preferisce agitarsi tra l'estasi e la noia. Mario Venuti e Carmen Consoli, Mai come ieri. Dolce pensiero divino.